Radio 24 Reportage. Cibo, il made in Italy più amato nel mondo, di Nicola Scevola. Il nostro cibo è da sempre una voce fondamentale dello stile italiano, anche fuori dal nostro paese. I prodotti made in Italy, infatti, sono sempre più ricercati anche dai consumatori stranieri. Lo dicono gli ultimi dati dell'export, che con un più 11% nell'anno 2016 su 2014 piazzano gli alimentari in testa alla serie A delle nostre esportazioni, segnando una crescita quasi doppia nel commercio estero rispetto ad altri settori trainanti come moda, design e automazione. Il cibo italiano, infatti, è ricercato in tutto il mondo e gode di un'ottima reputazione, come abbiamo verificato intervistando un campione di buyer internazionali riuniti a Milano per partecipare a Tutto Food, fiera biennale dell'agroalimentare. Noi non mangeremo più né bistecche né spaghetti con ragù. Prenderemo quattro pillole con gran semplicità. La fame sparirà. L'Italia è aussi il paese della cucina e le pays du bien manger. I think in the Netherlands Italian food is announced very very good. Un italiano è un altro caffè belga. Italian cheese has a good reputation in Denmark. The Italian is one of the major. Ma come si potrebbe incrementare ulteriormente questa voce dell'export per renderla ancora più trainante nella nostra economia? Cominciamo dalla Francia, uno dei mercati più importanti per le nostre esportazioni, ma anche uno dei più saturi, data la presenza ormai storica dei nostri prodotti e la concorrenza locale fatta da ingredienti che, in molti settori, non hanno nulla a che invidiare alla nostra produzione. Ce ne parla Pascal Charopin, buyer specializzato nei prodotti di alta gamma. Les Italiens traditionnellement savent faire des produits industriels. Gli italiani tradizionalmente sanno fare dei prodotti industriali di qualità molto buona, con un buon posizionamento qualità-prezzo per dei prodotti di largo consumo. In Italia c'è tutto, la qualità intrinseca dei prodotti e delle materie prime. È stata anche sviluppata una regolamentazione dei sistemi per la valorizzazione dei prodotti. Faccio un esempio, il prosciutto. È essenzialmente un alimento fatto con prodotti banali, del maiale industriale, come ce ne sono dovunque in Europa, ma che è lavorato con sapienza e ben valorizzato, anche grazie alla comunicazione fatta dai consorzi sull'immagine della qualità italiana. Alla fine ottenete dei risultati che ci piacerebbe avere in Francia. Credo che avremmo tanto da imparare dall'Italia. Uno dei temi più ricorrenti fra i compratori della grande distribuzione di tutto il mondo è la necessità di fornire al consumatore straniero maggiori strumenti per cogliere la qualità dei prodotti italiani e per valorizzarli in cucina, come sottolinea Dharmendra Karnai, responsabile acquisti a Dubai per la grande catena di ipermercati Casino. In Dubai we have 176 nationality. But predominantly coming from Asia. A Dubai abbiamo 176 nazionalità diverse, con una prevalenza di asiatici. Cerchiamo di servire tutti gli strati della società, offrendo una vasta gamma di cibi italiani, dalle prelibatezze agli alimenti base come la pasta. Il cibo italiano è molto conosciuto, ma da noi la gente non cucina tanto a casa. Si va spesso a mangiare fuori, al ristorante. Quindi, per insegnare alla gente a cucinare cibo italiano, bisognerebbe organizzare qualche tipo di evento nei negozi o nei grandi hotel. Il mio suggerimento è di cercare di educare i consumatori, educare i venditori locali, spiegare la qualità e il modo con cui il vostro cibo è prodotto. Perché, ad esempio, voi esportate oli d'oliva comuni e oli di qualità. C'è una bella differenza, ma noi non la conosciamo. Tocca a voi italiani spiegarcela. Naturalmente, i primi ambasciatori del Made in Italy nel mondo sono i nostri chef, che sembrano consapevoli del ruolo fondamentale che ricoprono per valorizzare i nostri cibi all'estero, come ci conferma un cuoco incontrato fra gli stand mentre preparava delicatezze a base di gorgonzola. Ciao, sono Antonino Cannavacciuolo, di solito faccio il cuoco. Beh, sicuramente ci sono tanti miei colleghi che stanno facendo questo nel mondo, in questo momento Bottura è il leader nostro, no? Che sta girando il mondo a parlare dei prodotti italiani, poi pure noi con le presenze ai grandi convegni, è logico, portiamo sempre e cerchiamo sempre di parlare dei nostri ingredienti. Secondo me noi dobbiamo raccontare i prodotti di dove siamo nati e dove stiamo vivendo, quella è la cosa importante, perché sappiamo le origini, perché sappiamo come viene fatto. Se è nato lì significa che era l'habitat naturale di quel prodotto, e questo, credimi, io lo noto, e quando l'assaggio io vedo la differenza, perché ci sono dei passaggi sottili che ti fanno emozionare, e l'emozione alle volte non è solo l'ingrediente, ma è anche il racconto che c'è attorno a quel prodotto. Prendiamo il pomodoro ad esempio, considerato il re dei cibi italiani all'estero. Giovanni De Angelis, presidente di ANICAV, l'associazione industriale dei produttori di conserve, riconosce questa sfida e ci racconta come i produttori italiani si stanno attrezzando per affrontarla. Il pomodoro, così come la pasta o l'olio d'oliva, hanno sempre avuto questa tendenza, diciamo, a seguire questi flussi migratori. Diciamo. Arrivava lì dove arrivavano gli italiani che si trasferivano per trovare condizioni migliori o condizioni o lavoro. Poi successivamente si invece cambia il fenomeno oggi, cioè arrivano in alcuni paesi che scoprono la cucina italiana. Naturalmente la difficoltà del passaggio tra il mercato dell'Horeca, quindi della ristorazione, e quello del consumo attraverso, diciamo, poi la distribuzione è un passaggio che deve essere accompagnato da una serie, diciamo, di condizioni che rendono il consumatore in grado di poterlo cucinare. Quindi noi stiamo facendo un'azione anche attraverso i nuovi canali social, con un coinvolgimento in alcuni paesi, stiamo facendo dei progetti con ICE, Agenzia per l'internazionalizzazione, che cerca appunto di arrivare al consumatore attraverso i food blogger, attraverso video che possono in ogni caso accompagnare le ricette, che fanno capire un po' i tempi di cottura della pasta, piuttosto, diciamo, che quando interviene il pomodoro, come utilizzarlo. E noi riteniamo che questi siano canali utili, perché possono arrivare ad una, un pubblico importante di consumatori, anche in posti in cui evidentemente non c'è ancora una cultura della nostra cucina. I prodotti italiani più diffusi sono anche quelli che si scontrano più direttamente con uno dei grandi nemici del Made in Italy, i prodotti Italian Sounding, quelli cioè che scimmiottano l'origine italiana, ma che in realtà non hanno nulla a che vedere con il nostro paese. Noi abbiamo e scontiamo una grande difficoltà in termini di Italian Sounding. Siamo bersaglio in ogni luogo del mondo dove vengono commercializzati prodotti, come dire, che hanno, richiamano l'italianità, ma che di italiano non hanno niente. Le preoccupazioni dei produttori di pomodoro in conserva sono confermate da un buyer di origini italiane specializzato nel mercato canadese, Davide Bonamici, che sottolinea come a volte siano gli stessi produttori italiani ad approfittare di questo fenomeno dell'Italian Sounding. Specialmente in Vancouver, dove c'è una presenza asiatica molto alta, il mangiare italiano è molto ricercato, è probabilmente molto purtroppo usato per mascherare italianità che non sono là. Marketing, right? Quindi c'è molta confusione, e la confusione viene anche creata dal produttore, perché a volte non c'è chiarezza nell'etichetta. C'è molta assonanza. Faccio un esempio: c'è San Marzano. Non dico il nome, ma questo importatore che si è creato questa etichetta chiamandola San Marzano, ma usa prodotti californiani ed è un produttore italiano. Ma in un mercato apparentemente saturo come quello dell'alimentare, dove difficilmente si può presentare il cibo italiano come nuovo, cosa resta da fare per stimolare la domanda? Secondo il presidente dell'Agenzia del Commercio Estero Michele Scannavini, manager con anni di esperienza nel settore del lusso, l'unico modo è ricalcare le orme proprio di quel settore, facendo leva sull'emotività per valorizzare l'immagine del prodotto. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Il cibo è un settore trainante, non solo e non tanto in termini di volumi, ma anche in termini di come racconta la narrativa del Made in Italy, perché attraverso il cibo possiamo raccontare alcuni degli elementi che sono poi i nostri vantaggi competitivi all'estero, come la qualità, come la tradizione, ma anche come l'innovazione tecnologica. E questo può mantenere i nostri prodotti sempre fortemente aspirazionali. Guarda, io sono convintissimo che la narrativa più efficace è quella legata all'esperienza. Secondo me bisogna raccontare la storia del cibo, il suo territorio, le famiglie che lo coltivano, il processo di produzione,